siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Pensavo che andasse molto peggio. È chiaro che l'impatto alla partita è stato brutto, perché loro nei primi 6 tiri ha fatto 4 gol. Però è proprio una questione fisica, mentale, di 11 giocatori che giocano solo loro nelle ultime 3 partite in 6 giorni. Perché voglio credere, no è nell'amore, se no me entiende, no me comprende tal come io sono. Io credo che avrebbe fatto peggio una vittoria oggi della testa dei calciatori, proprio il discorso fatto prima, noi dobbiamo mantenere un equilibrio. Lavoriamo, abbiamo lavorato, finalmente questo tour è finito, visto che è stato abbastanza faticoso, e poi vedremo, insomma, quando torneremo ad Appiano, il 4, vedremo se ci sono novità e tutto. È un mondo difficile. È vita intensa. Il mio è valutare insieme alla società le cose che, come ho detto prima, sulla quale intervenire, poi vediamo. Io non posso perdere energie sulle possibilità, sulle ipotesi o sulle eventualità, quindi non c'ho tempo per questo. Non puedo come te, amico. Dunque, partiamo da Milan e Inter, che le hanno prese secche da due presunte grandi, certamente il Bayern, un'altra presunta grande europea come il Liverpool, però oggi vogliamo cominciare a raccontarvi con Giovanni Capuano, che è qui con me. Ciao, che Carlo. Sarà mio compagno per questa lunga parte di estate. Vogliamo cominciare a raccontarvi, facciamolo subito Giovanni, quello che faremo per le Olimpiadi. Ovviamente senza tralasciare tutti gli altri sport, senza tralasciare il calcio mercato, tutto quello che vi aggrada, 800 24 00 24, ma siamo pronti a clonarci per l'Olimpiade, no Gio? Ci cloniamo, raddoppiamo il nostro appuntamento, quindi quello tradizionale dalle 14 alle 15 per raccontarvi le storie meravigliose che ci regala il calcio mercato nel periodo di agosto. Ad esempio, lanciamo subito agli amici a casa questa cosa: Ibra è arrivato nell'hotel a Manchester, non c'era la piscina, li ha mandati a stendere. Quanti di voi oggi, se siete al primo giorno di ferie, non c'è la piscina nell'hotel, fate le valigie e ve ne andate? Perché questi sono problemi, eh? Non, a me non piacerebbe solo per essere al primo giorno di ferie, ma sono contento di essere qui. Però mi piacerebbe essere al primo giorno di ferie, non trovare anche la piscina, senza piscina, andare a anche stendere. Senza piscina, anche senza piscina. Il caldo che fa diventa complicato. Però quanti di voi l'avrebbero fatto? 800 24 00 24. Io scommetto che adesso 349-238-6666 risponderanno un sacco di bagnanti a bordo piscina con la loro bella spremuta d'arancia, ci diranno. Sì, ma potete anche mandarci la foto, chiocciola tutti convocati su Twitter. Dai, mandateci le foto. Poi, siccome ci cloniamo e noi non abbiamo la piscina, ma non possiamo andare via, dalle 18 alle 20, da tutti questa i giorni, sera, tutti i giorni, lunedì, venerdì, vi portiamo a Rio de Janeiro con le nostre storie. Ci sarà anche Leo Turrini, vero? Sì. Sì, abbiamo comprato Leo Turrini perché Van Danara ci ha fatto lo sconto, come sappiamo l'agente di Leo Turrini, che peraltro sentiremo anche più tardi su questioni di Formula 1, ma sarà il nostro grillo parlante olimpico. Avremo Dario Ricci pure inviato a Rio de Janeiro e avremo questo grande contenitore in cui, Giovanni, proveremo a far stare dentro un po' di tutto, non solo sport e giochi olimpici, ma anche dintorni e contorno dei giochi olimpici. Sì, ma anche perché il Brasile offre mille di queste storie, mille di queste opportunità, quindi noi ci proviamo dalle 18 alle 20. E se volete, hanno sempre i telefoni aperti, 800 24 00 24, ma se volete già prenotarvi non c'è nessun problema, noi siamo aperti, poi vi richiamiamo. Però mi raccomando, ci tengo alla cosa della piscina, eh? Ci tiene la cosa della piscina? Ci tengo a dire che avremo un sacco di ospiti, ad esempio in questi primi giorni, noi cominciamo oggi, le Olimpiadi cominciano venerdì, però giusto per entrare in clima, saranno con noi anche delle nuove superstar di Radio 24. Fuori posto, ormai lo conoscete tutti, le Iene e dintorni. Già prima facevo quattro chiacchiere, loro hanno parlato e parleranno questa sera di un argomento che sta a cuore a molti italiani che andranno a Rio de Janeiro: la prostituzione, cioè in quante arrivano là per i giochi olimpici. Non siamo la Zanzara, parleremo di sport naturalmente, ma di sport e dintorni. Partiamo allora per quanto riguarda l'appuntamento pomeridiano, che vi ricordo è dalle 14 alle 15, perché le teste coronate di Radio 24 hanno detto: ragazzi, va bene, vi facciamo uno sconto di mezz'ora, ma tanto anche la sera vale qualunque argomento. Cioè, se poi Pogba decide di andare a Real Madrid, noi ne parliamo. Siamo qui per parlare con voi di Olimpiadi, di sport e di molti altri dintorni, anche di Milan e Inter, che stanno vivendo un'estate contraddittoria. Abbiamo sentito nella copertina, a proposito, Giovanni Melchiori, il nostro autore, oggi, e Gianmarco Ferronato in regia. Stanno vivendo un'estate molto contraddittoria, tra sconfitte, batoste, chiacchiere, rumors, affari che non si concludono da punti di vista societari, affari che sono già conclusi, affari di mercato che non vanno in porto, mentre la Juventus veleggia verso altri lidi. Il Napoli, a proposito, auguri per i 90 anni del Napoli, ieri grande festa, bellissima, sono arrivati anche gli auguri di Benitez, non so quanto ironici o no. Le milanesi stanno vivendo un'estate di grande depressione, possiamo dirlo, no? Aldo Serena, ciao! Ciao, ciao a tutti! È vero. È vero, le attese erano alte per queste due squadre, e devo dire che oltre le squadre anche le società. Milan è in stallo ormai da tanto tempo, l'Inter no, ma non c'è ancora il cambio di uomini della nuova società, e quindi non ci sono direttive, forse mi sembra anche armonia con Mancini. Sì, il che è strano, Aldo, perché a me l'Inter non sembra messa poi così male dal punto di vista della costruzione, è vero? Mancini ha chiesto dei giocatori, no Giovanni? Questi cinesi hanno detto: sopra una certa età non intendiamo svenarci, hanno posto dei paletti, poi ci sono delle difficoltà di comprensione dovute non solo alla lingua tra Mancini e la nuova proprietà, però tutto sommato a me l'Inter, con una Roma che è ancora in costruzione, cui mancano diversi giocatori, con un Napoli che dopo la perdita di Higuain sta cercando di rinforzarsi, non mi sembra lontanissima da sì, questo. Però è pericoloso, cioè questa è una scommessa pericolosa per l'Inter, cioè dire siamo più vicini al secondo e al terzo posto semplicemente perché gli altri si sono non rinforzati e tu sei rimasto quello che sei, è secondo me una scommessa pericolosa. Io l'ho detto anche ieri e lo ribadisco: tra un'assenza totale di progetto tecnico, che è quella oggi dei cinesi e di Tohir, perché un mese fa parlavano di Gabriel G, di Joao Mario, e non sono arrivati. E il progetto tecnico di Mancini può non piacere, può stare antipatico ai tifosi, può essere quello che gli dicono te ne devi andare, ma io oggi sto col progetto tecnico di Mancini, perché è l'unico che mi sembra che abbia un'idea di che cosa si debba fare. Sì. Gli altri parlano di conti, di cose che sono assolutamente importanti per noi, lo sai, sono sacre, però ad oggi di quel progetto che avevano disegnato non si è visto nulla. Aldo, sei d'accordo? È vero anche che a mio avviso Mancini è un allenatore particolare, non è l'allenatore didattico che costruisce una squadra anche in maniera precisa, con indicazioni su giocatori che possono essere dei campioni in divenire. È un allenatore che vuole spesso giocatori già fermati con alte qualità, l'ha dimostrato anche nella sua carriera, e la sua bravura è stata quella di riuscire a farli acquistare dai propri dirigenti, e sta provando anche adesso. I dirigenti non lo seguono, anche perché probabilmente si sono conosciuti da poco, se si sono conosciuti e non hanno ancora l'idea di spendere cifre di un certo, di un certo rilievo, e quindi la situazione è abbastanza precaria. Anch'io credo che la squadra non sia attrezzata per poter vincere lo scudetto, perché la Juventus è fuori da fuori ogni portata, logica, sì. Ma anche per arrivare seconda, terza, è un Inter che lo scorso anno ha fatto fatica, ha fatto bene fino a dicembre, e poi tutti si aspettavano un Inter che con un gioco migliore, invece non c'è stato il gioco migliore, non ci sono stati più risultati, la squadra si è persa, e più o meno è questa. Aldo, noi diamo tutti per scontato che perso Higuain il Napoli si sia indebolito, che è, tu tutto, dici di no. Che è tutto da dimostrare, cioè certamente è una perdita importante. Però ieri facevamo due numeri. L'anno scorso Higuain ha fatto del reparto d'attacco 36 gol su 65. Se noi torniamo indietro due anni fa, cioè al primo, primo anno di Benitez, il primo anno di Higuain, un anno normale, quindi con il Napoli arrivato terzo, con un Higuain normale, 17 gol, alla fine più o meno l'attacco del Napoli era arrivato lì, perché noi dobbiamo ricordarci che l'anno scorso quelli che hanno ruotato intorno a Higuain e che hanno giocato per lui hanno fatto i minimi di carriera al Napoli come numeri. E chi ti dice che quei gol tu non li recuperi? Cioè, secondo me il Napoli resta comunque una squadra più avanti rispetto all'Inter. La Roma poi... la Roma da completare, poi vedremo, però, Giovanni. Sì, ma è da completare, ma manca anche un mese alla fine del mercato. Il sì. Napoli non ha grossissimi problemi economici in questo momento. No. Stai usando degli eufemismi. È vero, Aldo? Beh, Sarri è un allenatore che fa giocare le proprie squadre in una determinata maniera, verticalizza con immediatezza e le giocate sono con tempismi perfetti. Quindi chi è davanti è sicuramente avvantaggiato. Ha fatto 36 gol di Higuain, ma io credo ne abbia avute di occasioni molte rispetto a quelle che ha avuto Icardi. Icardi è un giocatore che all'Inter ha fatto il suo dovere pur avendo a disposizione poche opportunità, e quindi bisogna valutare anche questo. Il fatto poi che l'Inter voglia e mi sembra anche prende in considerazione il fatto di cedere Icardi sia una situazione che Mancini non può accettare. Ma tu per 60 milioni lo venderesti o no? Icardi? Icardi? Se avessi a disposizione un'alternativa anche giovane di un certo rilievo, forse, ma io credo che l'Inter, che deve avere dopo ormai parecchi anni di assenza di vittorie, l'ambizione per poter cercare di vincere qualcosa, deve non perdere i giocatori più importanti e soprattutto importanti giovani che possono ancora migliorare come Icardi. Ah, senti Aldo, invece per chiudere sull'altro fronte, quello del Milan, perché se l'Inter ha delle difficoltà, ha dei problemi, ha delle incertezze, degli imbarazzi, dall'altra parte stanno molto peggio, no? Perché è un'estate di totale transizione, probabilmente anche societaria, con un affare che ancora non si chiude, denari per il mercato non ci sono. L'altro giorno usavo un'immagine, cioè se uno sta vendendo una casa non si mette a rifare i serramenti, ed è quello che sta facendo il Milan. Quindi mercati a parametro zero, Menez è partito alla volta di Bordeaux, ci sono pochi giocatori tra virgolette commercializzabili, brutta parola, però Bacca, si parla anche di De Sciglio. Io credo che al Milan, i tifosi del Milan si debbano preparare ad una stagione di grande sofferenza. Idea paradossale per certi versi, perché gli ultimi due allenatori che ha avuto il Milan in Mihajlovic forse non erano in linea con le idee del presidente Berlusconi, che sono quelli del possesso del pallone, del comando del gioco, del giocare bene, dell'andare in avanti con molti appunto elementi. E in quest'anno io penso che Montella possa soddisfare quelle che erano queste pretese del presidente. E non ha però forse la squadra adeguata per poter ambire a determinate posizioni di classifica. Lo stallo è proprio ormai conclamato da tantissimi mesi, e se dovesse andare avanti così, Montella può dare un'impronta alla propria squadra, al Milan, ma le ambizioni sono sicuramente ridotte al minimo. Eh sì, al minimo sindacale. Aldo, grazie. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao Aldo Serena. Possiamo dire due cose sul Milan? Possiamo dire due cose sul Milan, certamente. O però c'è traffico? Anche... No, al traffico manco un minuto. Io volevo sentire Elena dalla provincia di Belluno, che ci sta aspettando da un po', e che certamente seguirà le Olimpiadi su Radio 24, tutti convocati alle Olimpiadi da stasera alle 18. Buongiorno. Buongiorno. Vero che seguirà? Starà con noi. Io sono una ragazza con tante primavere e prima non vi seguo sempre, ma siete simpatici, pieni di entusiasmo. Grazie. E io non ce l'ho più, cosa avete, io ho tante primavere, ripeto. E quando ho saputo di quel giocatore che cambia albergo perché non ha la piscina, dicasi, ecco, Zlatan Ibrahimovic. bravo, vabbè. E quello lì ha tanti soldi, ma è una povera persona, è un poveretto, questo sì. Voglio dire. Ma sa, si sta facendo anche portare tutto il giusto per chiudere il capitolo della cronaca su Ibrahimovic. È andato al Manchester United, ormai ha diverse primavere anche lui dal punto di vista calcistico. Si sta facendo portare a Manchester il suo parco di auto sterminato e intanto gira con una fuoriserie in prestito, poverino. Sa. Capito. Comunque è una povera persona. E poi voi siete pieni di entusiasmo, parlate di calcio, ma è tutto un mondo marcio. Mi dispiace. Siete simpatici voi ragazzi, la radio signora, mi fa tanta compagnia, ma però è così la storia. Ma sa signora, però sono leggi che fa il mercato, anche qualche volta l'ambiente del cinema, io faccio sempre questo paragone, e voi fatalmente vi sarete rotti le scatole di sentirmi paragonare gli attori, i calciatori agli attori, ai musicisti, ai pittori, a tutti questi che sono... In senso lato artisti, anche se a qualcuno verranno i brividi pensando ad alcuni medianacci, però la verità è che sono lavoratori infungibili, quindi le leggi le fa anche economiche, le fa il mercato, e dunque io non ce la faccio a scandalizzarmi per certe cifre, ma neanche per certe bizze che sono quelle di Ibrahimovic, come possono essere quelle di Mick Jagger che ha compiuto gli anni l'altro giorno, o di Sting, o di dimmene un altro. Ah sì, ma Brad Pitt, ma assolutamente, però ha ragione la signora. Cioè, ma sì, ma che ci sono dei personaggi che si autonominano leggenda, sì, giusto Giovanni. Per parlare di Zlatan Ibrahimovic, che io credo fra 50 anni non saranno ricordati quando si ripercorre la storia del calcio. No, beh, adesso, quelli ricordati sono pochi, li conti sulle punte delle dita, sì, di una mano. Ibra secondo me vinto, fra 50 anni non ci sarà. Beh Giovanni, uno che però ha vinto tutti gli scudetti di tutti i campionati cui ha partecipato tranne uno. Cioè, almeno questo regola, poi tu mi dici non ha mai vinto la Champions League, non ha mai vinto un grande titolo europeo o mondiale con una Svezia che abbiamo visto quanto vale anche i recenti europei, sono d'accordo, ma che questo resti comunque, io credo che valga anche tutto. In modo perverso un'icona. In un calcio che paga 70 milioni Lukaku, sì. Notizia di ieri dall'Everton al Chelsea. E ci sta anche che Ibra prende, se ne vada dall'hotel perché non c'è la piscina. Ma ripeto, in realtà non è solo Ibra che lo fa. Io sono sicuro che gli amici da casa possono darci qualche soddisfazione. Quante volte sono arrivati in un villaggio, non gli piaceva qualcosa, la piscina, il ristorante, la camera, il letto, la camera. E se la sono fatta cambiare? No, oppure se ne sono andati. Va bene, 800 24 00. Diciamo una cosa sul Milan. Aspetta, perché abbiamo il traffico e siamo in ritardo. Poi è collegato con noi anche uno dei re del mercato parlato, Michele Crescitiello. È in linea anche Alberta da Bergamo. Vedi che oggi sei tu, chiamano solo signore. 800 24 00 24, torniamo subito. Cazzo, guardi. Tutti convocati. Tutti convocati. Io sono argomento, tu gli hai scatenati un miliardo di messaggi, eh? C'è chi dice grande Capuano, Ibra pallone gonfiato, forte con i deboli, deboli con i forti. Non sono così d'accordo, caro ascoltatore, che ci scrive tutti i giorni, peraltro, a cui sono molto affezionato, tifoso laziale. Il vero scandalo non è Ibrahimovic, ma i giornalisti sportivi che campano sul nulla. Vabbè, su questo glissiamo, campano ma sul nulla. Possiamo dire una cosa? A marzo, aprile, non mi ricordo, noi abbiamo letto un piccato comunicato di De Laurentiis che se la prendeva con un giornalista, con una testata, adesso senza stare a fare nomi, che aveva detto guardate che Higuain ha fatto sapere che non vuole rinnovare, poteri forti, destabilizzazione. Uh-huh. Poi dopo tu scopri, tre mesi dopo, invece, che aveva ragione quel giornalista lì. Anche Mino Raiola, che ha dato dei pappagalli, tutti quelli che stanno raccontando che Pogba andrà al Manchester United. Vediamo alla fine di questa settimana. Michele, ciao. Ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. Senti, Michele, ciao. Posso chiederti un favore? Anche due. No, uno solo. Diamo la parola ad Alberta da Bergamo, la signora che ci sta aspettando. Che certo, che certamente seguirà le Olimpiadi con me, con Giovanni Capuano, ogni sera dalle 18 alle 20. Alberta, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io vi ascolto sempre, però bravissimo. Questa storia mi è piaciuta. Io abito a Bergamo, ma sono di Sondrio. Da noi diciamo, la dico la frase, che quando la merda la monta a scagno, la spezza la fa danno. Mi dispiace. Facciamo una traduzione dal dialetto all'italiano. Da quale dialetto? Di Sondrio o di Bergamo? L'ha già capita, non è difficile. No, io l'ho capito, ma sa. Ecco, basta, l'ha capita. Del mondo. Tutti, dai, per favore, ma non esageriamo. Mm-hmm. Va bene, ho solo questo da dire. Comunque complimenti, la trasmissione è bellissima, siete bravissimi, vi ascolto tutti i giorni. Anche stasera e fino alla fine delle Olimpiadi dalle 6 alle 8. Sì, eh. Assolutamente sì. Molto bene, l'aspettiamo anche al telefono. Perché... Va bene, grazie. Buona a lei giornata. Signora Alberta, buongiorno. Michele Crescitiello, tu cambi albergo se non c'è la piscina, ovviamente. Allora, come a me tutte la le superstar. Serviva, ragazzi, questo è poco ma sicuro, perché io un problemino l'ho avuto. Purtroppo sì, ve lo confesso. Vabbè, te la mando poi per iscritto, Michele. Assolutamente, no, non cambio albergo, dipende, però se al massimo mi informo prima se c'è o non c'è. Ovviamente in questo caso credo che comunque ci siano problemi peggiori, però sappiamo come Ibrahimovic. Sì. Il problema però non è Ibrahimovic, è che comunque i bambini viziati, e non dico che Ibra è un bambino viziato, ci sono anche nel nostro campionato e anche purtroppo gente che fa la Lega Pro alla Serie B, e quindi stiamo parlando di gente che non influisce più di tanto, però ormai sappiamo che la categoria è questa. Sì, allora Michele, arriviamo a bomba. Oggi sì, la voce che si è diffusa è quella di un'offerta dell'Inter di 50 milioni per Cavani, e 1+1 potrebbe fare 2, e il 2 vorrebbe dire Icardi magari con destinazione Napoli. Questa è soltanto una voce oppure no? A te cosa risulta? A me non risulta assolutamente questa nulla. Indiscrezione, nulla. No, ma non significa che non sia vera, assolutamente rispetto per i colleghi. Io quello per che carità. Ho riportato sabato mattina alle 8.35 era di un'incursione fortissima di venerdì notte dell'Inter per Gabigol, Gabriel Barbosa, che è un attaccante molto forte brasiliano che gioca nel Santos. La Juventus era arrivata ad offrire 18, il Santos voleva 25, e allora l'Inter con Piero Ausilio e con Mirabelli, che è il responsabile dell'area scouting per il Sud America, sono andati forte, fortissimo, attraverso un mediatore famosissimo del calcio italiano, su Gabigol. Gabigol è interessato a vestire la maglia dell'Inter in questo momento, anche perché saprebbe di essere titolare. Allora l'Inter venerdì pomeriggio via SMS, Ausilio ha ripreso i contatti con Silvio Pagliari, che è il procuratore di Gabbiadini, ovviamente per cercare di prevenire in caso di partenza di Mauro Icardi. Questo è quello che mi risulta, questo è quello che ho detto, questo è quello che potrei ribadire. Nel frattempo il procuratore Chia insiste per mandare João Mario all'Inter con Candreva, che è pressoché fatta, e quindi queste sono le strategie nerazzurre che in questo momento a me risultano. Che però prescindono Italia, dai Cardi, perché se Gabigol pensa di venire a fare il titolare, se l'Inter si cautela con Gabbiadini, certo, perché il punto è questo, Giovanni. Vuol dire che alla fine Vandanara, la signora Vandanara, senti Michele, ma posso prendere Risa, aveva ragione. No, ma posso prenderla come agente anch'io, tu che la conosci, eccetera eccetera. No, io non la conosco la signora, però mi puoi raccomandare per favore, tu che sei un re del calcio mercato televisivo? Se dovesse raggiungere l'obiettivo la signora Vanda, di sicuro avrà fatto bingo. In questo caso bisogna vedere quanto davvero è disposta a fare il braccio di ferro con l'Inter, che detiene il cartellino del marito, del compagno marito, non so se sono sposati o meno, ma ovviamente sposati ufficialmente, sì. Sì. Chiedo scusa alla signora Vanda, e secondo me in questo momento, se lei dovesse arrivare fino in fondo con Aurelio De Laurentiis, allora potrà avere ragione. Bisogna capire anche quanto il Napoli vuole sbilanciarsi per portare Icardi, e poi soprattutto qualcuno mi dice una cosa, qualcuno mi dice un'altra: il Napoli sarebbe disposto a pagare senza mettere la contropartita famosa Manolo Gabbiadini nell'operazione Icardi. Qualcun altro invece dice che Gabbiadini potrebbe partire. La verità è una: che Gabbiadini non piace a Sarri, ma piace a Giuntoli e De Laurentiis, mentre Gabbiadini piace a Mancini ma non piace ad Ausilio. Sì, Michele, e questo è un po' una contraddizione. Perdonami, però io continuo a non capire. Facciamola facile: secondo te quante la classica domandona che si fa, quante possibilità ci sono che Icardi vada al Napoli secondo te? 60 su 100 in questo momento. Adesso mi è molto più chiaro. Mi è molto più chiaro. 60 io, credo siamo, sono io credo che siamo sotto il 50, ma non per una logica di mercato. Cioè, in una situazione normale, nessuno offrirebbe 60-70 milioni per Icardi, diciamo la verità, e nessuno si sognerebbe di rifiutare 60 o 70 milioni. Bravo. Per Icardi. Ma non è una situazione normale. Appunto. Ma infatti a quelle cifre non siamo arrivati, scusami. Ragazzi. Non siamo arrivati a quelle cifre. Si sta ragionando 40-45, forse 50, ma massimo come cash da mettere sul piatto. E forse, come dicevo, forse si può ragionare su una contropartita di Manolo Gabbiadini, che in questo momento è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. C'è chi ti domanda come vedresti, alla luce delle risultanze dell'ultima stagione, un'ipotetica coppia d'attacco Icardi-Bacca all'Inter. Icardi? Bacca. All'Inter? Uh-huh. Ma secondo me in questo momento stiamo parlando del nulla, perché potrebbe essere una buona coppia, però in questo momento questa coppia all'Inter sinceramente non la vedo neanche alla PlayStation. Quindi neanche alla PlayStation. In questo momento no, poi tutto è il contrario di tutto, però in questo momento non credo che ci possano essere questi presupposti. Credo tra l'altro che Bacca non sia l'attaccante ideale di Mancini adesso, con o senza i Icardi, perché in realtà poi Bacca potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che sì, Milan mi sembra, anche se mi si spiegava ieri Mauro Suma, dal primo agosto, quindi da oggi in realtà si alzano notevolmente le quotazioni di un Bacca che resta al Milan e viene in qualche modo reintegrato. Nessuno c'era una sola offerta, esatto, quella del West Ham, nessuno è stata realmente mittente dal giocatore, certo. quindi qualcuno ci chiede se Wanda Nara era procuratrice anche di Maxi Lopez quando stava con lui, non mi risulta. No, era Andrea D'Amico, esatto. Non risulta operazione al Milan Andrea D'Amico, non risulta. E quindi è debuttante assoluta, ma grandissima, cioè lei minoraiola sono io. E Andrea D'Amico anche, cui ho proposto diverse volte la mia procura, non me l'ha mai inchiostrata. Mi rivolgerò a Wanda Nara o a Mino Raiola. Un'ultima domanda per Michele Crescitiello riguardo al centrocampista in arrivo alla Juventus. Chi è? Allora, se va in una certa maniera l'operazione Pogba, arriva Matic, perché in questo momento sta spingendo moltissimo. Qualcuno ha parlato anche come trequartista di una riapertura per Oscar che Conte avrebbe messo sul mercato. Alla fine a me risultano due nomi, Witzel o Kovacic, e non si scappa da lì. Due settimane fa una persona che era al mare in Sardegna, vicina di ombrellone di Witzel, quando si scriveva sui giornali che il Napoli aveva fatto breccia, anzi il Napoli lo faceva sapere anche attraverso i canali ufficiali e partner, mi disse assolutamente no, lui aspetta solo la Juve. Witzel. Sì. Ci sta. È quello poi che sta succedendo. Ascolta, c'è un amico Roberto che invece chiede considerazioni sul mercato del Toro, così gliele giriamo direttamente. Toro secondo me può essere la squadra di rivelazione, mi è piaciuto moltissimo fino adesso il mercato del Torino. Michele? Sì, la domanda è rivolta anche a me. Assolutamente, sì, certo. Codo ha fatto assolutamente un buonissimo mercato, ha sistemato gli esterni, ha dato a Mihajlovic quello che serviva di più per il Toro. Lukic è un grandissimo giocatore di prospettiva, bisogna capire come finirà per la vicenda Maximovic-Valdifiori. Se dovesse perdere Maximovic ha bisogno di un altro difensore, se non lo dovesse perdere rimane soddisfatto. Assolutamente la difesa del Toro è una grandissima difesa. E poi io credo che comunque Valdifiori è il centrocampista che in questo momento potrebbe fare bene e potrebbe interessare molto, sì, sia all'Udinese, al Torino, e alla Sampdoria, perché comunque al Napoli la sua esperienza è assolutamente finita. Certo, Napoli, certo, che comunque chiude con Rogge e Zielinski per 18 milioni di euro con l'Udinese. C'è chi si dice sicuro Gabbiadini andrà ad Udine, si chiama Daniele, io qualche dubbio mi permetto di lasciarlo lì sul sullo schermo dei WhatsApp. Michele, grazie, a presto. Buon lavoro a te, Michele. C'è un amico che scrive: cosa c'è da dire sul Milan? È una squadra con encefalogramma piatto e vi dirò di più, questo è Luca, porteranno in aula di tribunale i libri per il fallimento, hanno ucciso tutto, non è rimasto nulla. Hanno ucciso l'uomo ragno. Invece noi proviamo a dare due notizie. È qualcosa che sta succedendo in queste ore, è uno scenario che magari potrà anche cambiare, ma ho l'impressione che le vicende societarie della trattativa che riguarda il Milan siano destinate a tornare al punto di partenza. No, come il gioco dell'Oca. Come nel gioco dell'Oca, e quindi sostanzialmente a finire con un nulla di fatto almeno quest'estate. Perché? È una sensazione, però insomma questi continui rinvii, siamo ormai a praticamente tre mesi dalla firma di quella esclusiva tra la Fininvest e la cordata cinese, oltre allo stallo di mercato, hanno portato a differenze profonde tra le parti, forse anche parecchia diffidenza, perché evidentemente i rinvii sono stati troppi, e quindi il pensiero che sto maturando, raccogliendo un po' di informazioni, è che si sia destinati a ripartire di nuovo da zero. Torna al via, come al gioco dell'Oca. Cesare, provincia di Venezia, poi ci fermiamo per la borsa. Salve a tutti, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Sì, dopo che mi ha detto a che ora, da stasera, a che ora è il nostro programma, tutti convocati alle Olimpiadi. La prima domanda. A che ora è? Alle 18, Cesare. Dalle 18 alle 20. Quindi io direi a Gianmarco Ferronato di abbattere sicuramente Cesare, no, che richiama dopo. No, di abbattere, che si sarà preparato. Non fare il cattivo, che abbattere. Cesare, dalle 18 alle 20. Cesare, 18, dalle 18 alle 20. Dica. Mi inginocchierò dalle 18 in poi. Chiedo perdono. No, una domanda la mia. si sa da quando esiste il calcio che è il centrocampo che decide se una squadra può vincere o perdere. Pogba, Marchisio, Khedira. Adesso cominceremo, abbiamo solo piani, perché Khedira c'è e non c'è. Marchisio è rotto. Siamo veramente più forti dell'anno scorso o no? Questa è la mia domanda. Secondo me oggi no, Cesare, hai ragione, però oggi non è finito il quadro. Di quel terzetto che hai detto, togli Pogba, che andrà a raggiungere Ibrahimovic, sperando che nel frattempo abbiano trovato un hotel con la piscina a Manchester. Sì. Metti Pjanic e poi ne arriverà un altro e la Juve credo complessivamente sia certamente più forte dell'anno scorso. Noi, se vuoi, rilanciamo il giochino che abbiamo fatto ieri. Neto, Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Evra, Sturaro, Hernanes o Lemina e Asamoah, ma magari uno degli altri che abbiamo citato prima diventa una riserva, Piazza, Mandzukic e Zaza. Quanto arriverebbe la Juve 2 nel prossimo campionato? Bella domanda questa. Ve la lasciamo lì, 800240024. Vi ricordo che però oggi, da oggi e fino alla fine delle Olimpiadi, ci saremo fino alle 15, mezz'ora di sconto, ma perché poi torniamo dalle 18 alle 20 tutte le sere per voi e con le vostre voci. A dopo. Guarda, adesso io cado dalle nubi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Giovanni Capuano, grande nostro amico ascoltatore laziale, che non ricordo come si chiama, oltre che essere laziale sono anche dei Knicks, New York Knicks, destinato a soffrire in eterno. Ma ognuno si sceglie. Non si sceglie il tifo che vuole e va bene così e non si cambia, caro amico che non ricordo come ti chiami. Abbiamo invece tanti ascoltatori come sempre, 800240024, da oggi e fino alla fine dei giochi olimpici, dalle 14 alle 15 per tutti i convocati pomeridiano, dalle 18 alle 20 per tutti convocati alle Olimpiadi. E Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto non mi è molto simpatico Ibrahimovic. Cioè, a pochi è simpatico. A me è simpatico, poi questione di gusto. Tendo a cambiare canale quando sento queste cose qua. Vabbè. Mm-hmm. Però comunque, se uno come un povero Cristo come me, che dopo magari un anno di lavoro prenota una vacanza e paga per qualcosa poi non lo trova, questo... Io invece, a me è successo il contrario, abbiamo prenotato una mini crociera per non pagare il massimo dei prezzi, star dentro dei prezzi, abbiamo scelto la cabina, quella murata, quella senza finestra, quella senza oblò, niente. Quando siamo arrivati avevamo la terrazza con gli sdrai, non avevamo neanche il coraggio di aprire le valigie perché abbiamo detto qua c'è un errore. Quindi hai fatto tutta la vacanza con le valigie chiuse temendo che bussassero. Riccardo, no. Guardi, ha sbagliato, c'è sottoscala. Abbiamo aperto le valigie alla fine della giornata perché ho detto qua prima o poi ci cambiano la stanza, perché non era quello che invece alla fine ci hanno detto che era l'ultima di culo. Meraviglioso, no? No, c'è andata di culo, però se io viceversa, se avessi pagato quella con la terrazza. Eccetera, farmi tutta la vacanza fuori dalla nave non avrei potuto andare nel sottoscala. Esatto. Sarebbe, perché dopo, per quanto riguarda il mio parere, su c'è stata una signora che mi ha rubato la battuta sulla merda sopra Scagno, no? Sì. Però quello è una cosa mia personale, io proprio non riesco né lui né altri, insomma, che poi si montano la testa però Riccardo, allora diciamo Ibra male non ha fatto nell'arrivare lì, dire no, albergo senza piscina, ragazzi, io mi voglio fare un puccio, come dicono a Milano. C'è un amico che ha scritto, Enrico da Verona, qualche anno fa, quando il Milan era forte, ho fornito un campo in erba per l'allenamento a Milanello. Sì. Perché Ibrahimovic non si trovava su quello vecchio. Non gli piaceva l'erba del vecchio campo. E quindi via, io non so se sia vero, non ho ricordo di questa cosa, ma ce lo dice Enrico da Verona, 349-238-6666. Io però voglio ringraziare l'amico da Pordenone, perché ha rotto un po' il muro dell'ipocrisia questa cosa che... Ma sì. Leo Turrini, ciao Leo. Ciao. Buongiorno, quante volte, quante volte hai detto non c'è la piscina in hotel e non no, va bene. Non c'è nemmeno io a Rio. Cambio. Io sto per arrivare a Rio e non c'è piscina, anzi dicono che ci sono laghetti dove affiorano cadaveri. In attesa delle gare di vela, di windsurf e quant'altro, quindi cercate di starmi vicini, in particolare l'amico Genta, ma vorrei dare subito le notizie del tram. Allora, okay. allora aspetta un attimo, no. aspetta perché... Piero Cormano, tutti in coda. Perché? Perché c'è la multipla di Marchionne che non riesce più a sorpassare il furgone delle lattine gasate Red Bull. E infatti io adesso siamo qui in fila, è un dramma. Adesso ti faccio le pulci, caro Leo Turrini. Aspetta, che adesso ti faccio le pulci, perché una settimana fa ti arrampicavi sugli specchi, adesso gli specchi sono finiti, mio caro amico. No, però voglio dire, fammi dire che grazie alla, insomma, a Vandanara, agente di Leo Turrini, siamo riusciti a strappare a carissimo prezzo, perché la signora, si sa, è molto esosa, Leo Turrini per i nostri programmi olimpici ogni sera dalle 18 alle 20, e quindi Leo Turrini sarà la nostra superstar olimpica. Amici di Radio 24, fate attenzione, perché io sono come Marchionne sulle promesse mondiali della Ferrari, io prometto e poi il cellulare non funzionerà. Quindi sarò dietro le Red Bull. Vabbè, ma noi siamo abituati con Pierre, non solo Marchionne, noi siamo in questo paese siamo abbastanza abituati. Pardo è scomparso dai radar, ma tornerà anche, torna anche agosto. Allora aspetta, abbiamo preparato una copertina sulla Formula 1, adesso stiamo delirando. Formula 1, vabbè. Si avvicina Lewis Hamilton a chiudere questa grande gara, ancora una volta per lui, quarta vittoria consecutiva, ultima curva per andare in vacanza. Lewis Hamilton da leader, da forte leader di questo mondiale. Ultimi metri, bandiera a scacchi per Lewis Hamilton, che vince per la 49esima volta in carriera, meno 2 da Alain Prost. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Germania, sul podio entrambe la Red Bull. La Red Bull ha fatto dei miglioramenti, non è che ci si può nascondere, bisogna riconoscerli, e vorrà dire che adesso invece di due competitor ne abbiamo due. E questo era Maurizio Arrivel, grande amico di Leo Turrini. Sì, Iron Mauri. Iron Mauri. Diciamo una cosa, qui in coda dietro la multipla di Marchionne sulla Piero Cormano, per tirare sul morale degli amici ferraristi. Abbiamo pur sempre 145 punti di vantaggio. Ancora sei lì. Sulla Williams. Ancora sei lì. Gli specchi sono finiti, amico mio. Una settimana fa, lunedì scorso, mi dicevi: ma abbiamo un punto in vantaggio nella classifica costruttori sui bibitari. Allora, finiti gli specchi, Leo. Allora, diciamo la verità: siamo arrivati alla pausa estiva con una Ferrari che ha le gomme sgonfie e che purtroppo è lontanissima da quelle che erano le aspettative di noi appassionati. Io mi assumo tutte le mie responsabilità, come ha detto Toir con Mancini, no? Voglio dire, credevo che ci fosse invece l'opportunità non di vincere, perché la Mercedes, lo dico per il mio amico Carlo Genta, quello di ieri era il 50esimo Gran Premio dell'era Power Unit, i motori ibridi in Formula 1, ne ha vinti 43. Quindi siamo in presenza di una dittatura che non ha precedenti, nemmeno la Ferrari di Schumacher. Però detto questo, la delusione ferrarista, quale io sono, è enorme. Tra l'altro, dopo che ci eravamo sentiti tu e io 7 giorni fa, a Maranello c'è stata una mini rivoluzione, se n'è andato il direttore tecnico James Allison, è stato promosso a questo incarico il mio vecchio amico Mattia Binotto, che ha, devo dirti, un grande pregio che lo aiuterà in questo istituto famoso, è interista. Ora Binotto, come me, come Vandanara, soffre ormai ormai in maniera, devo dire, quotidiana per le vicende nerazzurre, quindi chi meglio di lui sì. può presentarsi al capezzale pensavo che dicessi un grande vantaggio quello di conoscere un sacco di cose, quello di essere, di aver già capito quello i problemi di sapere come si disegna una macchina, quello di sapere come si aggiusta una macchina come si disegna, allora, come si disegna. Mi dice, Leo Turrini mi dice ha un grande pregio tifoso dell'Inter, ma noi siamo legati a queste cose qui, noi siamo quelli della Penichella della domenica che ci aspettiamo che la Ferrari quando ci svegliamo sia davanti a tutti. No, voi siete delle star della radio e giustamente insomma io trovo solo gente in giro che mi dice tutti convocati qui là un programma insomma tipo promesse cose di Manzoni, ma avete segnato un'epoca, no? Ecco, però guardate la Formula 1, io lo dico sempre e so che è difficile da mandare giù, ma ascoltatemi un attimo, Enzo Ferrari, una leggenda italiana del Novecento, quindi parliamo voglio dire del meglio, dal 1964 al 1975, 11 anni, finché non arrivò Lauda, che saluto con simpatia perché oggi è il 40° anniversario del suo famosissimo, terribile incidente al Nürburgring, ed è bello che Niki sia ancora con noi, lo dico per i più giovani che mi ascoltano, che credono che quella storia lì sia solo un film, perché Ron Howard ha fatto una pellicola fantastica, Rust, e invece era tutto vero. Lauda è un altro grande del Novecento, peccato che oggi lavori per Mercedes, però voglio dire, persino quando c'era il vecchio Ferrari, purtroppo lunghi momenti senza vincere nella storia del cavallino ci sono stati. Poi, perché ci siamo ridotti così? Io ho una mia spiegazione, se mi date 4 ore qui alla trasmissione che fate su Rio, vi posso anche fornire dei dettagli. Certamente Marchionne quando è arrivato ha sbagliato tutto, perché uno che diventa presidente della Ferrari e dice possiamo vincere subito, e si trattava solo di rimuovere il tappo che era poi il ciuffo dell'avvocato Montezemolo, chiaramente non aveva una percezione della realtà, perché la Formula 1 è tecnologia pura, non è che mandi via Benitez, arriva Zidane e il calcio Real Madrid che prima arrancava a vincere la Champions. Qui c'è da colmare un ritardo tecnologico che è ancora molto molto consistente, si tratta di capire se si riesce a Maranello a convogliare tutto l'impegno necessario con la discussione, voglio dire le energie migliori, a prendere anche dei bravi tecnici e a dare finalmente a Vettel che è in depressione. Sì, chiaramente assomiglia un po' ad Alonso, assomiglia un po' ad Alonso, no? Dai, assomiglia un po' ad Alonso. Non credo, comincia ad avere la faccia di Alonso, con la faccia un po' così. Alonso, io gli voglio molto bene, ha compiuto gli anni l'altro giorno, ma se non altro Alonso è moro e mette il tiro al castano, quindi c'è già una differenza cromatica. No, è vero che Seb sta passando una fase piuttosto complicata, perché anche lui aveva creduto che in questa annata fosse possibile lottare per il campionato, si ritrova a lottare con il santo bevitore, mio idolo, stavo dicendo, Kimi Raikkonen, per il 5º posto. Non è che un grande campione possa essere felice di questo, capito? Però insomma, se non si comprende la mistica della sofferenza a proposito dell'essere ferraristi e interisti, ma pensate noi interisti, ci tocca persino Van Danara che fa il mercato. Ma sei la tua gente, non denigrarla. Ma vi rendete conto? Van Danara tratta lei De Laurenti. Ma noi e anche siamo Leo Turrini con Radio 24. Senti, sì, facciamo così, ma Leo. Tu stai lì. Di Meazza, Boninsegna, Mazzola. Vabbè, adesso non fare, non fare il nostalgico. Tu sei un maschilista, Leo. Sei un maschilista. Van Danara sta facendo benissimo il suo lavoro. Rispetto. Van Danara sta facendo benissimo il suo lavoro e lo dimostra il fatto che Icardi avrà il raddoppio dello stipendio. Un mese fa ridevamo tutti, ma io anche oggi rido. Marchionne, il suo dovere un po' meno perché è ancora fermo sulla Pero Formano dietro questo furgone. Ma di quando è che va gattante? Via Marchionne? Aspetta, ma fermi un attimo. Allora, no, sono viene a Rio, Leo, con me, state sereni, viene a Rio con te. Va bene, farà la tua spalla. Stai lì un secondo perché ho il traffico che è il tuo appuntamento preferito. E poi un'ultima cosa, di cosa parleremo nei nostri appuntamenti serali, Leo Turrini? Della doccia di Stephen Wade. Poi vi dico. Se volete che dica che mi arrendo, scordatevelo. Tutti convocati. Tutti convocati. Vlade Capuano, vediamo noi le Olimpiadi. Dimmi di chi è? Stephen Wade, che è un collega, io non so se lo conosci, di Leo Turrini, che però è già a Rio, Leo, e che ha twittato qualche minuto fa una foto con questo messaggio. Primo tentativo di farmi la doccia nella camera al villaggio media. Niente acqua calda e la doccia mi è caduta in testa. Mamma mia. Parti pulito. Portale il metto. Posso dire una cosa? A Rio 2014 con la gloriosa nazionale di Balotelli, Cassano e Pardo, mondiali, io stavo in un posto che si chiama Itaguaí e non abbiamo capito alla fine che voleva indicare Italia guai, no? Sì. Dove dai rubinetti della doccia uscivano scarafaggi. Quindi sono pronto a tutto. Sarà una grande avventura e ve la racconteremo, vuol dire, con entusiasmo. Mi dispiace solo che mi perdo il matrimonio di Kimi Raikkonen, che c'è durante l'Olimpiade, sulle colline senesi. E lì pare che finalmente la Ferrari arriverà in orario, perché almeno in chiesa saremo puntuali, capito? Non possiamo mancare, ma manderò Carlo Genta a rappresentare. Ma volentieri. Ma tanto poi non ci sentiremo mai, perché il telefono che mi avete dato non funzionerà. Ma come non funziona? Non è mica quello di Pardo, guarda che funziona. Ma non vado a rubinetti le docce, figuriamoci se vanno cellulari di Radio 24, ma lasciamo perdere, ma non c'è nessuna possibilità. Comunque ogni tanto qualche saluto ve lo manderò affettuosamente. Va bene. A Londra, ricordatevi, a Londra abbiamo vinto noi italiani 28 medaglie. Secondo me a Rio se arriviamo a 20 è una gran cosa. Sì, sono d'accordo. Dago dice 25. Ma Megalone dice tanto, ma io dico niente più che sufficiente. E ricordate, non essendoci la Ferrari, forse a Rio saliremo al podio. Perché adesso da quando c'è Red Bull volevi dire la come no, no, io volevo dire questo dove? Che ce l'avevamo in collegamento da quanto? Da 20 minuti e per non dirci Leo Turrini, per non dirci quando va via Marchionne, che ha bucato per la seconda volta consecutiva la stagione della Ferrari, sta parlando di tutto, anche di Malagò, degli scarafaggi. Allora, il presidente col ciuffo mo di Sergio Cristallo, no? Luca Montezemolo, un quarto di secolo sul trono di Maranello, un grandissimo, perché se guardate i risultati sono in pista, però ricordatevi che Montezemolo, presidente di Ferrari, ha messo 8 anni per vincere il primo titolo. Ora Marchionne è a Maranello da 18 mesi. Il suo sbaglio è stato quello di far credere alla pubblica opinione, sempre detto al mio amico Carlo Genta, che si trattava di un errore colossale. Certo, e io ero sempre stato d'accordo. Ecco, che bastasse, ripeto, cambiare il vertice per essere automaticamente in grado di battere un colosso come la Mercedes. Io spero che adesso Sergione con Seisao Marchionne abbia compreso la complessità della Formula 1. Però guardate, se mi chiedete, la Ferrari vincerà nel 2017, non fra 2 mesi, chiedetemelo. Vincerà nel 2017? No, e io devo essere con chi mi ascolta, perché il distacco è troppo grosso per immaginare di ribaltarlo in pochi. Sì, poi, sono d'accordo, anche se l'anno prossimo sarà tutto diverso dal punto di vista regolamentare. Si mette in pista proprio adesso Fiorano, che sta provando le nuove gomme Pirelli per il 2017, da Magnato, che sono molto più larghe. C'è una rivoluzione regolamentare che riguarda telaistiche e quant'altro, però nonostante questo, fidatevi, non sarà semplice. Poi io pagherei di tasca mia, e come pago di tasca mia per lavorare con Genta, ma voglio dire, pagherei di tasca mia anche per vedere vincere la Ferrari, però se vi devo raccontare delle storielle io non ve le racconto. No, fai benissimo. A noi interessano le storie da Rio che ci racconterai a partire da questa sera. Ciao, allora, ciao Leo. Non va nulla. Nulla funziona. A dopo. Sono a Piero Cormano, sono fermo in coda, va bene. A dopo. Un abbraccione. Ciao Leo Turrini. Il nostro grande acquisto olimpico, Giovanni Capuano. Filippo, Renzo e Domenico. Io però ho anche un paio di storie d'amore da raccontare. Come facciamo? Facciamo prima Renzo che aspetta da... Renzo, buongiorno. Renzo? Pronto? Dica. Sì, sono qua, sono qua. No, niente, io volevo parlare appunto di Ibrahimovic, voglio dire, io obiettivamente ho 65 anni, ho fatto 25 anni fa una piscina a casa mia e l'ho fatta, sì, per mio figlio che aveva 8 anni, voglio dire, lui moriva dalla voglia di buttarsi in acqua, io come lui, voglio dire. Uh-huh. Poi non, voglio dire, avevo un po' di prato, lo tagliavo, voglio dire, mi facevo il bagno alla fine, secondo me sono cose indimenticabili. Quest'anno, certo, non ho neanche aperta, ma perché ho un'altra età, è diverso. Cioè, secondo me, voglio dire, ogni età ha la sua stagione. Cioè, Ibra ha 8 anni, ecco, ci stai dicendo? No, però, dicevo, cioè, chi dice magari l'ha fatto per i figli, capisco, ha chiesto la piscina per i figli. Sì, no, io capisco che tutto sommato, voglio dire, a quell'età lì si può ancora avere il bisogno di... Io ricordo ancora adesso il piacere che avevo quando mi buttavo nell'acqua, che era tiepida, ed era fantastica, è un qualcosa che ricordo ancora adesso. Ma sicuro, ma infatti Renzi, guardi, posso dirle la verità, odiatemi pure, ma io avrei fatto come Ibra, ma scusa, estate, devi stare in albergo, poi magari gli serve anche per gli allenamenti, che ne sai, allenamenti nell'acqua, eccetera, però... Ibra, arrivi lì, è estate, agosto, ti devi allenare, magari la famiglia, i bambini, l'albergo senza piscina, no, vabbè, vado da un'altra parte dove la piscina c'è, cioè non la trovo una cosa così scandalosa. Filippo e Domenico, posso raccontarvi un paio di storie d'amore che mi piacciono da morire, che Giovanni Melchiori ma girato? Abbiamo qualche effetto sonoro per introdurle? No, vado io. Canzoni. Stasera voglio farti un regalo che ti faccia ricordare chi scordati non sa. Ho sentito questo disco suonare, l'ho comprato per te. Allora, noi siamo qui a dire della piscina di Ibrahimovic, di lui che se ne va, ma lo sai Giovanni che Gareth Bale, ormai consacrata superstar mondiale gallese del Real Madrid, ha affittato un'intera isola per chiedere alla compagna, che peraltro è la madre dei suoi figli, Emma Ray Jones, di sposarlo. Quindi ha speso 450.000 euro per aggiudicarsi in esclusiva l'isola di Tagomago, non so bene dove si trovi, ma in qualche paradiso esotico, no, è vicino a Ibiza, neanche tanto lontano. Ha preso un'isola per chiedere... Chi non l'avrebbe fatto? Chi non l'avrebbe fatto? Potendo, siete veramente dei potendo cuori di pietra. Altra storia è quella che riguarda il Genoa, più vicino a noi, c'è Miguel Veloso che dopo 4 anni passati a Kiev ha deciso torno a casa. Perché? Perché ha sposato la figlia di Preziosi, ha rinunciato a un sacco di soldi, metà dello stipendio per tornare, la coppia voleva un figlio, voleva che il figlio in arrivo nascesse in Liguria. Quindi voi che dite che i calciatori sono dei cuori di pietra, sono... gente senza sensibilità, beccatevi queste. Filippo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. Io quando ho detto appunto alla ragazza Milan 82, perché mi sembra di rivivere alcuni momenti, io non sono, ho 45 anni, quindi uh-huh, quando c'erano Bliss e Wilkinson, Hartley, uh-huh, e mi sembra che i giocatori attuali siano tutti quelli, hanno detto, spero che non si offendano i vari Bacca, Montolivo e tutto il resto, ma insomma, erano abituati a cose ben diverse. E la cosa che a me dispiace è che io non rinnego il passato, da milanista mi va bene anche questo, mi dispiace che però lo rinneghino i dirigenti, Berlusconi per primo, perché ci ho sempre fatto caso nelle varie rappresentazioni a San Siro, in eventi importanti, componevano RVM dove questi giocatori non venivano mai presentati perché erano di scarsa importanza, per poi finire negli ultimi 5 anni, lo testimoniano i fatti, comunque sempre a quel periodo. Allora, di solo passato non si può campare. Adesso ci dobbiamo salutare con Filippo. C'era anche Domenico in ascolto, ma abbiamo tempo anche stasera. Sì, salutiamo anche l'amico che scrive Leuturini scherza, ma io sono davvero fermo sulla Pero Cormano. Perfetto, lo salutiamo. Allora, alle 18, dalle 18 alle 20, con il sottoscritto Giovanni Capuano, appuntamento per tutti i convocati alle Olimpiadi, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione, ci sentiamo dopo.